Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, oggi 14 ottobre, siamo nel cuore del mese della prevenzione del tumore della mammella e io voglio tornare a parlare con voi di prevenzione, di diagnosi precoce, di cura, perché non dobbiamo abbassare la guardia nella battaglia contro il tumore al seno. Il rapporto AIOM-AIRTUM, i numeri del cancro in Italia 2017, riporta 50.500 nuovi casi di carcinoma della mammella, con un trend di incidenza in leggero aumento, ma è in crescita, e questa è un'ottima notizia, anche la percentuale di donne che sopravvivono a 5 anni dalla prima diagnosi. La diagnosi precoce resta quindi un'arma fondamentale nella lotta per contrastare il cancro al seno, ma sono ancora troppo poche le donne in Italia che si sottopongono allo screening mammografico. Solo il 55% di coloro che hanno ricevuto l'invito nel 2015. Io non sono in grado, care amiche e cari amici, di spiegare le ragioni che spingono una donna a non controllarsi, ma sono in grado di dirvi e di darvi una buona ragione per farlo. Per vincere tutte le resistenze, diagnosticare precocemente il tumore quando ha dimensioni quindi ancora piccole, ridotte, aumenta significativamente la possibilità di sconfiggerlo. Anche per il tumore il tempo è vita. Ne parleremo naturalmente nel corso di questa puntata di Obiettivo Salute. In linea con noi abbiamo il professor Marco Aloisio, presidente della sezione milanese della LILT e chirurgo oncologo all'Humanitas. Buongiorno professore. Buongiorno a voi e radioascoltatori. Ma oggi sentiremo anche le storie di chi il tumore l'ha incontrato, l'ha affrontato e ha deciso di condividere la sua esperienza, a volte di metterla addirittura anche in rete per seminare la cultura della prevenzione. E intanto io ho bisogno di lei, perché è necessario migliorare tra le italiane la conoscenza delle regole della prevenzione del tumore al seno. È stato presentato dall'AIOM, l'Associazione Italiana di Oncologia, proprio nei giorni scorsi, un sondaggio condotto su 1657 donne, proprio che ha l'obiettivo di fotografare un po' il livello di conoscenza su questa malattia. Bene, i dati sono interessanti e richiedono un commento. Il 48% delle donne nel nostro paese ritiene che questa neoplasia non sia guaribile, e il 35% non sa che è prevenibile. Quindi, professore, c'è ancora parecchio lavoro da fare, ma partiamo direi dalle regole di prevenzione. Gli screening partono oggi dal 49esimo anno di età. Quindi, professore, le chiedo di rivolgersi alle donne che sono inserite nel programma di screening per spingerle a rispondere a questo invito. In effetti queste notizie mi lasciano molto perplesso e dispiaciuto. Indubbiamente i dati che lei ha dato a inizio trasmissione, dati AIOM e AIRTUM, cioè Associazione Italiana di Oncologia Medica e Registro Italiano Tumori, sono dati che tutto sommato improntano verso l'ottimismo, nel senso che per contro a una mortalità, un'incidenza che aumenta lievemente dello 0,9% anno, c'è una mortalità che si riduce dell'1,5%, per cui con delle percentuali di guarigione che sono intorno all'87-90% e sicuramente migliorabili, per cui questo è un dato, mi pare, molto buono. Il fatto che quasi più del 40% delle donne intervistate dicano che non credono nella diagnosi precoce e tutto sommato ritengono il tumore della mammella una neoplasia non guaribile, ecco. Mi spiace, perché vanifica molti sforzi che noi, sia come Lega Italiana per la lotta contro i tumori, che siamo molto impegnati sulla prevenzione primaria e secondaria, e in particolare me come chirurgo oncologo che si occupa di queste cose, Insomma, mi fa pensare che comunque dobbiamo ancora lavorare duro. Del resto... Però siamo a buon punto. Molto è stato fatto, professore. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno o lo guardiamo mezzo vuoto? No, io sono per il bicchiere mezzo pieno, ma secondo me è tre quarti pieno. Cioè, stiamo andando bene su questa cosa. È chiaro possiamo che... andare meglio se le donne ci aiutano, vi aiutano. Questo non c'è dubbio, perché la copertura dello screening mammografico, ci sono tre screening sicuramente salvavita, che sono il pap test per il tumore della cervice uterina, sono la colonscopia e la ricerca del sangue occulto nelle feci per le neoplasie del colon retto, e c'è la mammografia per il tumore della mammella. E questi sono screening salvavita, vuol dire che impattano sulla mortalità, per cui questo è un dato che tutti devono ben tenere presente. Infatti siamo dispiaciuti del fatto che in Italia, ad esempio, ci sia una differenza sostanziale fra l'estensione reale dei programmi di screening mammario, che nel nord Italia arrivano quasi al 90% contro quelli del centro Italia che sono 82%, a quelli del sud Italia che sono circa il 40%, per cui questo è un punto, una criticità su cui dobbiamo lavorare. L'altra, come giustamente lei ha detto, è quella di estendere i programmi di screening alle donne al di sotto dei 49 anni. Attualmente gli screening vanno dai 49 ai 69, ai 70, però noi abbiamo visto che nelle donne dai 40 ai 49 l'incidenza è piuttosto elevata, anzi è elevata e non tende a ridursi, e anche la mortalità è un poco superiore, per cui l'idea di fare screening su questa campione è importante. Tra l'altro le diagnosi sono sempre più accurate, professor Aloisio, ci sono anche apparecchiature sempre più all'avanguardia, come i mammografi digitali con tomosintesi, che sono tra l'altro presenti in alcuni spazi di prevenzione della LILT e assicurano una accuratezza diagnostica molto elevata e quindi in grado di evidenziare lesioni tumorali al seno molto molto piccole. Certo, è correttissimo, questa mammografia digitale con tomosintesi appunto dà delle immagini digitali ad alta risoluzione e con ricostruzione tridimensionale delle immagini, per cui arriviamo a livelli di accuratezza diagnostica nettamente superiori anche nelle donne fra i 40 e i 49 anni, che comunque in quanto in premenopausa hanno comunque una ghiandola mammaria più florida e spesse volte più difficile da valutare con gli esami, per cui aumento dell'accuratezza diagnostica che porta anche a una riduzione del numero di ripetizioni di esami. Certo. Nel senso che si riesce a fare degli esami più approfonditi senza doverli ripetere magari dopo pochi mesi. Noi dobbiamo fermarci, ma rimaniamo insieme al professor Aloisio, tra poco anche le storie di persone che il tumore l'hanno incontrato e che a Obiettivo Salute vogliono mandare il loro messaggio. A tra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta... Obiettivo Salute Weekend. Sono tornata nel cuore del mese della prevenzione del tumore della mammella. Torniamo a parlare di prevenzione. È importante, non dobbiamo avere paura. Ci aiuta oggi il professor Marco Aloisio, chirurgo oncologo all'Humanitas e presidente della sezione milanese della LILT. Professore, l'insorgenza del cancro al seno è ormai sotto i 40 anni, dunque si ammalano sempre più le donne giovani. Sarebbe, e gliela faccio come domanda, utile cominciare quindi a fare le prime visite senologiche da ragazze, insomma, io in quella fascia d'età che va tra i 25 e i 30 anni, insomma, iniziare già durante l'università, per dire, abituarsi a controllare il seno e quindi a effettuare correttamente l'autopalpazione. Parlo per le ragazze giovani. Certo, ma è una cosa giustissima, tant'è che noi andiamo verso proprio questa cosa, nel senso che continuiamo a consigliare l'autoesame più o meno una volta al mese, una settimana dopo le mestruazioni, in tutte le ragazze o giovani donne dai 18-20 anni in poi fino ai 30. Consigliamo peraltro dai 25 anni ai 40 anche una visita senologica periodica, magari fatta dal proprio ginecologo, e se si sente qualcosa di particolare anche un'ecografia mammaria. Il discorso è questo: magari l'autopalpazione o l'autoesame può aver perso in parte nel corso degli anni la sua validità, perché in effetti noi adesso prendiamo una gran parte di neoplasie mammarie non palpabili, cioè sì, piccolissime. Questo è un vantaggio, cioè è un vantaggio. Vuol dire tumori piccoli, vuol dire prognosi migliore, vuol dire una chirurgia meno invasiva, gentile. Professore, noi stiamo parlando di prevenzione. Il primo passo della prevenzione è l'informazione. L'informazione che può arrivare dai medici, ma un'informazione che può arrivare anche dalle storie che ci raccontano le persone che hanno affrontato il tumore e decidono di condividere la loro esperienza. In linea con noi un'amica di tutte le donne, Rosanna Banfi. Ciao Rosanna. Eccomi qua. Buongiorno. Grazie per essere con noi, perché tu hai raccontato la tua storia e l'hai raccontata a beneficio di tante donne che proprio partendo dal tuo racconto hanno preso consapevolezza di quello che potevano fare. Vuoi ripercorrere con noi quei momenti? Certo, è successo 8 anni fa e ti dovessi dire il momento particolare della mia reazione, me lo ricordo perfettamente, cioè quando sono uscita dall'ospedale, quando mi hanno diagnosticato questo tumore al seno destro e ho capito tutto quello che avrei dovuto affrontare. Sai cosa ho visualizzato davanti a me? Non so se ricordate quel film con Liza Minnelli, New York, New York, dove lei a un certo punto va sotto a un ponte dove passa il treno, sì. si attacca al muro e comincia a urlare, fa un urlo, lo faceva tutti i giorni, questo era un suo rito, no? Andava lì e faceva quest'urlo mentre passava il treno. Ecco, io avrei voluto fare la stessa cosa in quel momento, mettermi attaccato a un muro e urlare tutta la mia rabbia, il mio dolore, la mia paura, però poi è andata, poi ce l'ho messa tutta, sono passati gli anni, è andata bene, mi sono ripresa, mi sono rimessa in forma, sono tornata quella di prima e oso anche dire meglio di prima. Mi porto questa esperienza con me che mi ha formata, mi ha fatto diventare più grande e mi ha dato la possibilità oltretutto di aiutare tante altre persone parlandone. Alla fine basta parlare. Rosanna, molte donne, ne stavamo proprio parlando con il professor Aloisio, ascoltano i messaggi di prevenzione in un modo che io provo un po' a definire con le orecchie spente, cioè sentono ma preferiscono non sintonizzarsi con i contenuti dei messaggi che necessariamente la prevenzione veicola nei loro confronti. Lo fanno per mille ragioni, per paura principalmente, però noi lo sappiamo bene che la paura è la peggiore alleata di questa malattia, che come tu insegni, come raccontano tante storie a lieto fine, va affrontata a testa alta, anche con uno spirito da guerriero. Allora, alle donne che stanno ascoltando con le orecchie spente, tu cosa vorresti dire, Rosanna? Prima di tutto di accenderle e sintonizzarsi sulla vita, che la dobbiamo proteggere ad ogni costo, e una maniera per proteggerla sicuramente è prevenire, perciò non avere paura. Perché io ne ho conosciute tante in questi anni, da quando mi è successo che sono entrata a far parte di questa, della COME, di questa associazione di cui sono madrina e consigliera ormai, ho conosciuto veramente migliaia di donne in 8 anni e tante, tante hanno paura, non vanno a farsi i controlli per paura. Invece la paura uccide più del cancro, perché il cancro, come ha detto anche il professore, oggi si può diagnosticare molto, molto precocemente, quando è ancora molto piccolo, perciò anche le operazioni sono poco invasive. Non è come uno, come dire, come pensavamo. Io mi ricordo quando ero ragazza, no, che immaginavo che questa malattia, prima cosa immaginavo che colpisse solo le donne di una certa età. Si sapeva che era una cosa che colpiva le donne di una certa età, e poi avevamo questa immagine di persone devastate dalle operazioni, dalle chemioterapie. Adesso, per fortuna, la storia è radicalmente cambiata, professor esatto. Aloisio, possiamo dire così, dall'esperienza sì. Proprio Rosanna ha ben fotografato la situazione. Rosanna, perché è una testimonial formidabile di quello che è il tumore del seno e di quanto si possa guarire, di quanto sia importante la prevenzione, per cui complimenti per la testimonial. E anche per il tuo impegno, Rosanna. Grazie, è diventato il mio secondo lavoro, assolutamente, questo. Impegnarmi affinché altre donne non passino magari quello che ho passato io, o che comunque riescano ad affrontare la cosa con forza e con anche un po' di spirito, diciamo, prendendolo anche in giro, sto tumore. Grazie Rosanna Banfi per essere stata con noi. Un abbraccio, Rosanna. Grazie a voi. Professor Aloisio, io riprendo ancora i dati del sondaggio IOM di cui abbiamo parlato, che evidenziano che il 35% di questo campione non sa che il tumore si può prevenire. Come si previene? Quanto lo stile di vita, inteso come corretta alimentazione e attività fisica, può aiutare? Assolutamente, questo è una cosa assolutamente corretta, ci sono dei dati scientifici che lo dimostrano, e questo vale sia per prevenire il tumore del seno, ma anche per le donne che sono purtroppo incappate nel tumore al seno, nella vita successiva, quelle da sopravviventi, da lungo sopravviventi, devono mantenere comunque delle regole dietetiche, di stile di vita, che sono importanti, perché impattano sicuramente sul miglioramento della sopravvivenza, per cui, e non vale solo per la mammella, vale per il colon retto, per l'endometrio. Certo. Professore, apriamo il discorso fumo, perché lì diventa, come stile di vita, diventa un discorso di altro tipo importantissimo. Professore, a proposito di informazione, vogliamo anche ricordare che il tumore della mammella non è solo un problema che riguarda le donne, anche se tutti noi pensiamo all'ottobre come mese rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore alla mammella, questo tipo di tumore, in casi anche se molto rari, si può verificare anche negli uomini. E professor Aloisio, anche su questo aspetto si può fare informazione, e a volte l'informazione parte proprio, ancora una volta direi, dal racconto di storie di persone che vogliono condividere le loro esperienze e metterle a disposizione di altri, per dire io ce l'ho fatta, ma anche per dire attenzione, non perdete di vista la prevenzione. Noi abbiamo raggiunto al telefono Luca Colombo, country manager di Facebook, che ci ha raccontato la sua storia. Non ho mai avuto vergogna, appunto, di raccontarlo, tant'è che i colleghi, ma parenti, amici hanno sempre saputo di questa cosa. Chiaramente non l'ho mai poi reso pubblico in maniera, se vogliamo, allargata, però non è stato mai un motivo di non ho voluto mai nascondere la cosa. E poi più recentemente ho capito che condividendo con altri questa mia storia positiva in questo momento, chiaramente ha dato anche una mano, aiuta le persone ad avere un po' più di coraggio, comunque sentirsi meno soli, soprattutto persone o familiari di persone che sono in questo momento nella via della guarigione o comunque hanno subito o hanno ricevuto una diagnosi di tumore. Quindi non so se è coraggio, sicuramente quello che ho trovato, la motivazione che mi ha spinto a farlo è quella di aiutare un po' gli altri nel cercare di, appunto, sentirsi meno soli, perché è quello che ho un po' vissuto anch'io come nel mio percorso. Vedere e sentire altri che condividevano con te la stessa esperienza ti faceva sentire, appunto, meno isolato e meno persona colpita da qualcosa che magari riguarda soltanto te. Quindi in questo senso non coraggio, ripeto, ma semplicemente voglia di far sentire un po' meglio anche altre persone. L'intervista a Luca Colombo la potete trovare sulle pagine di Obiettivo Salute, ma io dedicherei proprio l'ultimo minuto di trasmissione, professor Aloisio, per commentare anche la storia di Luca Colombo e quindi quando e quali sono i fattori di rischio che possono favorire l'insorgenza del tumore della mammella nell'uomo. Intanto, come dicevamo appunto, è un tumore raro, nel senso che è un caso su 100.000 abitanti, per cui direi un tumore molto raro, anche se si osserva nel corso degli anni un lieve incremento. E soprattutto interessa rispetto alle donne, forse uomini più giovani, per cui al di sotto dei 45. Sui fattori predisponenti ce ne sono diversi, c'è una, a parte una sindrome geneticamente trasmessa che è la sindrome di Klinefelter, ma sono casi particolari, diciamo che grossolanamente sono degli alterati rapporti di metabolismo ormonale. Professor Aloisio, grazie per il suo impegno, per essere stato Obiettivo Salute, la ringrazio. Grazie a tutti voi. E le auguro un buon sabato. Per oggi è tutto, io vi aspetto domani come sempre alle 12 alla Bufala in Tavola. Buona giornata da Nicoletta.